Ascoltami le tue parole dolci ingoiere, potresti farne a meno. Ora che di me più stima io non ho, giurami che non mi hai mai mentito e ingannami, farò finta di niente. Ora che di me più stima io non ho. Sembrano sincero, lo sbagli sai, non puoi fidarti proprio. Ora che di me ti stima io non ho, stringimi se ti fa stare bene, illuditi che tutto sia normale. Ora che di me ti stima io non ho, io non so più. Stare bene, illudimi che tutto sia normale. Ora che di me più stima io non ho, io non so più ridere, io non so più piangere. Per ora il mio soffitto fissa me. Senza me, senza me.